non lo so. Magari ci ritorniamo, ma possiamo anche tornare sulle cose, non è che... Comunque, Graziella 5, è il 3 luglio e sono le 22.57. Ecco. Quindi, stavamo parlando delle medie, mm-hmm. e abbiamo parlato del... Monaco Nero. Del Monaco Nero, dell'episodio del ponte... E stavamo parlando della tua degenza. Eravamo già lì, sì. E comunque stiamo anche parlando, perché alla fine a questo giro l'hai solo accennato alla questione della tua consapevolezza che ti piacevano le donne. Questo non ce l'hai, sì, molto raccontato ancora. Non l'ho molto raccontato perché ho la differenza di forse... dicevo, di qualche tempo fa, veramente tendo a dare un ruolo meno decisivo a questo, che appunto ricordo è quello che diventa, non è? No, no, certo, però al di là dell'episodio sul quale poi possiamo tornare o non tornare, però... Ah, ma dopo questo io ho rimosso tutto, c'è stata una... c'è comunque è una questione centrale nella sua vita, quindi sì, in questo senso, cioè al di là... Ho pensato, se deve essere così catastrofico, per il momento mettiamo da una parte, va là. Vedremo. Ma tu ti ricordi quello che pensavi quando sei stata tanto ferma in ospedale? Perché a casa. Quanti mesi sono stati? Da dicembre fino a maggio. Tra ospedale e casa? Sì, venivo presa e poi riportata a casa con l'ambulanza, perché il fatto è che non potevo tirarmi su, ma che ero in carrozzina, ero a letto sempre. Ma quanto tempo? 5 mesi. Quindi una cosa che fecero, allora, che feci io, due cose feci. Mi comprai su Postal Market, vedi come ero avanti, era l'Amazon di ora, Postal Market, una lampada che secondo me mi sono portata dietro, forse l'hai incrociata anche tu, poi l'ho buttata via perché era distrutta ormai, una lampada da tavola e una radio transistor. Quindi ero piazzata, cioè quando mi portarono a casa dopo, secondo me quasi un mese, mi avevano fatto una postazione. Questa postazione era in sala, cioè c'era il tavolo, c'era la cucina, perché la casa era più piani, abitavo al secondo piano, no, era un unico piano, cioè sono stata portata su in barella e messa lì. E non era la casa quella ultima di cui avevo parlato, era la terza casa che abitavo. E com'era questa casa? Questa casa era che aveva, come quell'altra, non so perché abbiamo cambiato casa, per un qualche motivo, siccome si era in affitto, forse quell'altra casa serviva, cioè quella era il secondo piano. Secondo piano, questa si entrava, a destra, prima stanza, c'era la mia camera da letto. Però io di questo ricordo dopo. Ai tempi dopo delle superiori, che quella era la mia camera da letto. Giù in fondo c'era la sala, che aveva anche la cucina, che invece era sulla destra, quindi erano due locali distinti. Poi sulla sinistra c'era il bagno, poi c'era la camera di mia e poi c'era una cosa che veniva chiamato salotto, che in realtà era il salotto, la camera degli ospiti e la camera del mio fratello. Che lui dice, ma perché io sempre in salotto non ho la camera? Perché tu sei più piccolo. E quindi io avevo la camerina, lui no, lui aveva il salotto. Vabbè, questa era la casa. Quando venni mandata a casa la prima volta, allora intanto sarà andato un falegname, ma hanno modificato il letto di modo che non fosse completamente steso, ma fosse leggermente rialzato, leggermente. Di modo che, non so, ci sarà stato un motivo che in ospedale c'hanno le strutture del letto, a casa no. Quindi era come mi avessero messo due mattoni sotto la parte di dietro. Per cui non ero proprio stesa, ero tipo rialzata di 5 centimetri. Ero ingessata da qua, non il collo, cioè pigliavo da qua il gesso fino a sotto le anche. E poi ero ingessata dalle ginocchia tutto. Quindi avevo questo pezzettino di gamba libera sostanzialmente, che di fatti mi chiamava Don Quixote, era una specie di armatura. Con mi ricordo c'era il gesso qua, che tra l'altro ho avuto parecchi problemi, me l'hanno dovuto rifare, eccetera, perché io qua tuttora le costole un po' sporgenti. Quando mi misero il gesso, quando me lo misero, io non respiravo. Quando iniziai a respirare, ogni respiro, la costola andava a battere sul gesso. Quindi il tempo, 2 giorni, era un dolore insopportabile. Quindi mi aprirono, fecero un buco qua. Quindi c'era questo gesso con questo buco qua, di modo che io potessi respirare. E il problema era che per meno di 2 mesi io non mi potevo girare sui lati. Però sta sempre dritta, era una brutta posizione. Innanzitutto, però, io ho ripreso anche a fare i compiti di scuola e avevano fatto questa struttura dove io ero stesa, fatta dal falegname. I compiti della eri in terza media. Sì. E mi segò il coso per il gesso e poi c'avevo questo banchetto con un legnetto qua sotto dove io potevo appoggiare i libri e leggere, appoggiare, scrivere. Ci misi un po', ma mi pigliai, riuscivo a fare le cose. Perché sei riuscita a non perdere l'anno scolastico? Sì, sono riuscita a non perderlo, nel senso, mi portavano i compiti, mi avranno promossa per pietà, non lo so, quanto sta che non persi l'anno scolastico. Di fronte avevo la televisione, però cioè, io la televisione mi hanno sempre avuto un rapporto abbastanza sano. Cioè la televisione si vedeva a ore definite per vedere qualcosa di definito, come che si accendeva la televisione perché c'era la televisione, si vedevano certi programmi, quindi e in realtà essendo che quella era la sala di casa, cioè io partecipavo alla vita familiare perché finché si vedeva la televisione io vedevo la televisione, quando si mangiava io mangiavo con loro, certo loro mangiavano a tavola e io mangiavo così, non mi ricordo quando e se mai imparai a mangiare da sola perché in quella posizione è difficile non rovesciarsi tutto addosso. So che per bere avevo la cannuccia, che di quella la risolveva. E passai mesi così. Ero neanche male, poi, fin dei conti. Nel senso che, cioè, per me la vita è ripresa da dove era. E questo mi stupisco ancora adesso. Cioè, di dire, cazzo, dopo tutto questo, poi non sapevo quando, se mi avrebbero fatto camminare, cioè. Però la pigliai com'era. Quindi facevo queste cose, poi c'avevo la mia radio che mi ero comprata io con le mie mancette, che mi era arrivata da Postal Market. Quindi quando tutti andavano a letto io ascoltavo la radio. E secondo me fu allora che iniziai ad ascoltare Radio Praga e c'era Radio Tirana. Perché con le onde. Sì, c'era Radio Tirana. Ma erano in italiano, rago. In italiano, sì, facevano delle trasmissioni in italiano. C'è Radio Praga, che è Radio Tirana. Cominciò allora, poi l'ho ascoltato anche successivamente, negli anni 70, secondo me già allora iniziato. C'avevo tanto tempo, quindi stavo lì, giravo tutte le cose nella notte. Così passai quei mesi. Poi... Ma poi quando tu eri all'ospedale, primo mese? Sì. E che pensavi di quello che avevi fatto? Non ci pensavi più? Non ci pensavo più. Cioè, io avevo solo una sensazione che la mia vita era cambiata, che mai più nulla sarebbe stato come prima, ed ero contenta. Cioè, quel terrore che ho spiegato prima, che mi aveva fatto decidere di buttarmi, cioè quell'immagine era come se fosse sparita, non sarebbe mai più stato così. Perché mi vedevano a me in occhi diversi il mondo. Mi poteva vedere come matta, mi poteva vedere, ma io ebbi chiaro che non sarei mai più stata vista come ero stata vista fino a quel momento, cioè come una stupida che non ha aspirazioni, destinata a fare quello che il mondo vuole di lei. Cioè io mi ero ribellata, era stato un grosso momento di ribellione dove avevo rischiato tutto. Io poi ero contenta di essere sopravvissuta, ma anche perché non credevo che sarei sopravvissuta e ho invece molto presente il momento, cioè quei momenti molto rapidi e quindi veloci e limitati nel tempo, che però per me hanno rappresentato poi un'estensione, cioè proprio mi ha dato la sensazione di come il tempo non è sempre uguale. Lo scorrere del tempo ha delle improvvise accelerazioni, di improvvisi rallentamenti, cioè la mia vita è cambiata in 10 secondi, e quei 10 secondi però io me li ricordo di più che non magari un anno intero. Io mi ricordo di più quei 10 secondi, perché cioè, io mi ricordo cosa ho visto. Allora, prima ho detto cos'è che mi ha fatto buttare giù. Immediatamente fatto quel gesto con la consapevolezza, io mi sono buttata con la consapevolezza, sono svenuta. E quello mi è sempre rimasto impresso, cioè che quando sono svenuta ero consapevole che stavo andando a testa in giù nel vuoto. Però era una cosa talmente oltre che pensai, mi sto sognando. Quindi c'è stato un momento in cui ho pensato fosse un sogno, perché a volte si sogna di cadere nel vuoto, no? E poi immediatamente dopo ho pensato, no, non è un sogno, perché era dicembre, faceva freddo, io avevo il cappotto e ne ero consapevole e sentivo l'aria. Pensavo, se fosse un sogno non sentirei l'aria fredda che mi viene addosso, sto cadendo davvero. E in quel momento, no, che uno dice sta andando verso la morte, ha questa consapevolezza, io non ho avuto paura. Cioè ho avuto un attimo di felicità di dire ce l'ho fatta davvero. Io me lo ricordo questo sentimento contrastante, cioè prima di dire no, non è vero, ma tutto ciò è avvenuto nel tempo di, da quando mi sono buttata a prima che io cadessi. Perché io poi, e anzi non prima che io cadessi, molto prima, perché io poi non sono caduta di testa. Cioè, siccome era molto alto, casualmente, mi ero buttata, quindi mi ero data la spinta, quella spinta ha fatto sì che io mi rivoltassi su me stessa e cadessi dritta in piedi. Per quello mi sono salvata. Certo. Ma no, perché io ho pensato, mi rivolto, cioè io mi ero buttata a testa in giù. E quindi tutto questo ragionamento del freddo, l'aria, eccetera, io stavo andando a testa in giù. Io credo di essere svenuta nel momento in cui mi sono rigirata, che forse sai, c'è anche un fatto fisico, che forse non mi è più arrivato sangue al cervello, e in quel momento sono svenuta e sono rivenuta dopo. Ero un'altra persona, era avvenuto qualcosa che avevo deciso io. Era andata bene, bene o male che fosse andata, ho avuto come l'impressione che io ero la padrona della mia vita, a costo di dimostrarlo buttandola via, ma io decidevo, non gli altri su di me. E non sono mai più stata quella di prima, non sono più stata la bambina che pensava che non capiva. Cioè, quei 3 anni erano arrivati a conclusione, no? Quello che ho detto, cioè, comunque quel periodo delle medie è brutto finché tu vuoi, quindi fatto nelle classi quelle delle buttate là e tutto, mi avevano fatto prendere consapevolezza e mi avevano portato fin lì, nel bene o nel male. Quindi quando dopo sono finita in ospedale ed è iniziata tutta un'altra trafila, cioè era un'altra trafila dove io ero più forte. Io ero più forte da quel momento lì in poi e lo sono stata sempre. Quindi anche se poi magari tutti i miei buchi, tutte le mie cose le ho sempre avute, però non ho più avuto quel terrore che ho visto da vicino quel momento. Perché ho pensato, cioè, male male, piuttosto mi butto di sotto, cazzo, se non voglio una cosa, lo posso fare, lo so fare. E questo, cioè, me l'ha cambiato, cioè, lo posso dire ora a distanza di più di 50 anni, 60 anni, allora non lo potevo dire, lo dico col sapere poi, non certo. È un ricordo. No, certo. Però, cioè, io ero più forte, cioè, quindi sì, effettivamente io mi ricordo, poi appunto delle sensazioni forti che ebbi, ce ne sono sicuramente di quel periodo, alcune brutte, cioè la suora che mi infamò perché mi lamentavo una notte e venne lì e mi disse cazzo vuoi, non mi avrà detto cazzo vuoi, ma stai zitta, di cosa ti lamenti, te lo sei voluto, ecco. Cioè questo sì me lo ricordo, e mi ricordo che c'era mamma che è stata con me, credo, sempre che sono stata in ospedale, farmi le notti, eccetera, ci rimase forse più male di me. E mi ricordo che io, cioè rispetto a questo, la mamma era molto incazzata di questa cosa, la calmai io, e disse, vive male, cioè ero diventata più forte. E questo periodo poi di sia in ospedale, mi ricordo, perché poi ogni tanto ci tornavo perché mi dovevano fare le radiografie, poi mi ringessavano le caviglie, me le avevano operate, poi una me l'hanno rioperata, quindi sì, c'erano sempre le varie cose, quindi da dicembre a maggio in realtà io questo periodo l'ho fatto, sono entrata in ospedale altre 2 o 3 volte, tipo ogni mese e mezzo venivano, mi pigliavano da Recuaro, mi portavano a Vicenza con l'ambulanza, mi ricoveravano, mi facevano gli accertamenti, se necessario mi rifacevano l'operazione, finché a un certo punto, credo, appunto era maggio, mi ricordo la sensazione la prima volta che mi tirarono su, perché il problema era che avevo la schiena così, ma contemporaneamente avevo le caviglie, e quindi mettermi in piedi, il problema non era solo mettermi in piedi, è che dovevo anche avere i piedi che funzionavano, e paradossalmente stetti ingessata più le caviglie, perché erano partiti di brutto gli astragali, cioè l'ossicino che fa l'articolazione, quindi hanno cercato di rimetterlo insieme, però anche lì poi bisognava rimettere tutto il piede, era tutto malmesso, e infatti un piede a me è rimasto storto, ingessato storto, ed è quello che mi dà problemi ora anche in ginocchio, eccetera. E quindi ogni volta mi facevano i gessi, finché a un certo punto mi hanno fatto il gesso, quello aperto, e hanno deciso che anche la schiena stava abbastanza bene, e mi hanno messo un busto tutto stecche eccetera, senza rimettermi il busto quello da star giù. E mi ricordo la prima volta mi hanno tirata su e mi girava tutta la testa, stando sulle ginocchia sul letto, magari 2 o 3 persone che mi reggevano, poi mi hanno tirata giù e c'era il carrellino dove ti attacchi. Cioè dopo tanti mesi ho visto il mondo così e non così, è un'altra roba. Cioè, è stata una sensazione fortissima, anche quella poi di muovermi, per quanto, cioè, di fare anche 10 metri sul carrellino, è stata molto forte come sensazione, cioè, ma soprattutto la prospettiva, cioè la prospettiva del mondo visto da stesi. Ormai mi ero abituata a vedere sempre la gente da stesa, quindi erano tutti, li vedevo dal basso in alto, no? Vedevo i menti. Non vedevo quasi mai gli occhi della gente, e improvvisamente vedermi così come pareggiata non è che avesse chissà che significato, però mi ricordo la bella sensazione di avere riappropriato, cioè di riappropriarmi della possibilità di camminare, in realtà, perché di camminare, di star dritta, di ritornare a una vita. E poi da lì, piano piano, mi ricordo, tornai a casa, avevo questi gessi, motivo per cui poi sono rimasta zoppa. Cioè, io camminavo normalmente, la schiena era quella che era, io mi ricordo quell'estate andavo a giocare a pallavolo. Addirittura? Mi sono rovinata così, per quello mi è venuta la scoliosi, per forza. Andai a fare l'esame di terza media, mi ricordo, ci vuole andare da sola, li fecero nella scuola, quella più vicina, a 500 metri da casa mia, ci voglio andare io a piedi, non so come ho fatto ad arrivarci, perché avevo tutti e 2 i gessi, io non ho mai usato le stampelle, non me l'aveva neanche proposto, avevo i gessi su tutte e 2 le gambe, camminavo così, poi avevo questo busto, ma non lo so, non avevo imbarazzo, andai bel bello a fare l'esame in terza media. E poi... cosa mi ha cambiato la vita? Mi ha cambiato che quando è stata ora delle superiori ho fatto classico, se no mi dovevo baciare le manine a fare ragioneria. E perché dici? Perché il classico, anche se io non sono mai stata una grande studiosa, ma siccome avevo avuto questa roba, cioè non sono stati tanto in grado di leggerlo, né gli insegnanti, né lo psichiatra, quindi alla fine non mi hanno dato una diagnosi di chissà che. Ero solo troppo matura, questa è stata la diagnosi. E quindi quella che prima ero la bambina handicappata che vedeva la mamma, improvvisamente, ma anche per i miei, sono diventata quella troppo matura e troppo intelligente. E quindi sempre sventurata, ma perché troppo intelligente, non perché troppo stupida. Ovviamente nessuna delle due cose era vera, però onestamente era meglio essere considerata troppo intelligente che non troppo stupida. perché questo mi ha permesso di fare classico, non perché è classico chissà che è. Ma perché, te perché volevi fare classico? Mi hanno consigliato di fare classico. E io fra ragioneria al classico ho pensato, io se vado a fare ragioneria mi mando a fare l'impiegata, non vorrei poi che fosse una cosa brutta anche quella. Se vado a fare il classico si vedrà, se andrà a fare l'università. All'epoca con il tecnico non ti iscrivevi all'università, cioè l'unica maniera era per andare a fare l'università o il classico, lo scientifico. In realtà io volevo fare lo scientifico, ma non c'era Valdagno, c'era solo Vicenza. Così, con quella testa che avevo, non mi vollero mandare a Vicenza, i miei, era troppo lontano, chissà cosa avrei combinato, quindi Valdagno era più controllabile. E quindi a quel punto per me è più un adattamento al classico, perché volevo fare lo scientifico. Io, cioè, mi piaceva di più quello. E quello che mi ha cambiato nella vita è che facendo un classico e vivendo a Recuaro, eccetera, conobbi un certo tipo di persone. Che se avessi fatto forse altre scuole mi sarei ritrovata ancora una volta come in prima elementare con della gente con cui non avevo un cazzo da dire, eccetera. Io dirò non tanto nella mia classe, il quarto ginnasio e dopo, quanto per me il mio momento di crescita fu la corriera fra Recuaro e Valdagno, dove più o meno, fra l'altro, noi avevamo un orario più corto di chi faceva c'era poi ragioneria, Valdagno e il tecnico industriale. Il tecnico industriale erano quasi tutti maschi, anzi erano tutti maschi, e facevano un orario lunghissimo anche il pomeriggio, eccetera. Ragioneria pure faceva un orario abbastanza lungo, noi avevamo l'orario più corto, meno ore, e quindi cioè, alla fine io mi trovavo a fare il viaggio spesso con gente magari non della mia età ma tutti un po' più grandini che facevano il classico e si fece una compagnia dove io in qualche maniera mi inserì per la prima volta da che vivevo a Recuaro. Io avevo questo gruppo di amici tutti più grandi di me con cui sono anche cresciuta politicamente. Cominciando ma in che anno siamo a questo punto? Siamo nel 69 che è quello mitico della dell'autunno caldo. Senti, ma prima di affrontare questa questione che poi passiamo a no, che affronteremo perché appunto tutte le superiori e la politica eccetera, ma lo psichiatra? Cioè tutta quella vicenda lì quella è dopo. Allora, lo psichiatra è il primo a cui mi portarono, cioè perché immagino che comunque in quegli anni allora, cioè, dopo questa vicenda del ponte, oltre ai carabinieri, mi venne a fare visita questo psichiatra che era il direttore di quello che era ancora un manicomio, perché i manicomi credo che in Italia, proprio come dicitura, siano spariti negli anni 70, forse nel 72. C'erano ancora manicomi. In particolare a Vicenza c'era il manicomio che si chiamava San Felice, che non era tanto fuori città, ci passavo, era sulla statale, cioè da Vicenza che poi va a Verona all'inizio della città. E venne questo a visitarmi perché cioè, non si in ospedale? Sì, cioè a Vicenza, mi ricordo che era a Vicenza che cominciava a stare un po' meglietto, secondo me è stato, me l'hanno mandato dopo che hanno appurato che io avrei camminato, cioè che non c'era stato fuoriuscita del midollo, quindi è quello metti 15 giorni dopo della cosa più o meno, credo si sia capito. Quindi venne, mi chiacchierò, io risposi. Cioè, disse che non ero malata, non ero psichiatrica, eccetera, ma comunque magari una volta che io fossi stata meglio da andarci, poi mi ci hanno portato, tipo l'anno dopo, cioè alla fine, metti a può essere giugno, però mi ricordo questa visita, che era un'ulteriore visita di controllo per capire, cioè il problema era addirittura proprio l'internamento, quello come dubbio. Possiamo lasciarla fuori, va ricoverata, cioè che al tempo era internata in manicomio, questo l'avevo capito. E questo era una roba interna all'ospedale, cioè era l'ospedale e lo chiamava. Sì, era l'ospedale, cioè non c'era l'ASL, era diversa l'organizzazione sanitaria, non c'era il Servizio Sanitario Nazionale, il manicomio era una struttura autonoma con il suo direttore. L'aveva chiamato l'ospedale dove eri ricoverata. Sì, Però poi, una volta appurato che comunque non ero immediatamente da ricoverare, che mi visitò l'ospedale, disse: cazzi vostri. Quindi fu lui che coi miei rifissò un appuntamento quando io camminavo, quando io avessi camminato, quindi sarà successo a giugno. Quindi a giugno mi hanno portato a tornare a fare questa visita per rifare una valutazione, perché cioè, io credo che un problema che si poneva non fosse che io lo rifacessi, per esempio, cioè capire che equilibrio potevo avere o non avere. E mi ricordo quando sono andata, che c'era il... si entrava, era un edificio vecchio, tipo caserma austriaca, aveva questo corridoio enorme, poi c'erano tutti gli uffici a sinistra, e giù di sotto, cioè questo era rialzato tipo, che era a pari sulla strada, ma dall'altra parte era più basso, ed era dove c'erano i matti. E mi ricordo queste donne, che evidentemente era l'ora d'aria, con questi camicioni bianchi, cioè a me... io mi terrorizzai, questa madonna, ora mi mettono lì, quindi ero... cioè, mi devo comportare per bene, non far discorsi strambi, quindi mi comportai per bene, non feci discorsi strambi, non mi misero il camicione. Però mi ricordo, cioè, avevo 14 anni, neanche, cioè, di vedermi, e infatti a me mi colpisce sempre, no, quando ci sono queste storie dei matti, perché erano matti, cioè, quindi... quello da decidere era se ero matta o no, non è che era da trovare che malattia avesse, era matta o non è matta, è da ricoverare o no. E lì cominciai a rendermi conto, per esempio, che io avevo più strumenti dei miei, cioè i miei genitori ce la mettevano tutta, ma in fin dei conti erano anche ingenui, non capivano neanche cosa io stavo rischiando, ma io sì. Quindi io pensavo, qua mi devo guardare da questa gente, cioè ce l'ebbi chiaro. Cioè, io non mi potevo appoggiare i miei su questa cosa, ma non per cattiveria, perché non avevo gli strumenti di dire... Io me ne ero fatti più di... cioè, fra tutto, in tutto stambaradan, capivo che avevo più strumenti di loro, per quanto loro mi potessero dire no, non devi fare... Però... e quindi pensai, mi devo difendere da me. Fatto sta che dopo... quindi mentre cominciavo poi a fare il classico, cominciavo anche, però in realtà quel primo anno meno, perché fu un grosso ostacolo l'altro psicologo, quindi dico, no, ma una psicoterapia farebbe bene. Qui fra l'altro costruisce. Chi l'ha detto questo? Eh? Chi l'ha detto una psicoterapia? Questa della psicoterapia credo sia partito anche da questo qua del manicomio, cioè era una cosa che ci stava, no? Cominciavano ad essere... psicoterapia con questa parola? Credo psicanalisi. Però poi non era psicanalisi, Okay. Non usavano il termine psicoterapia, però usavano psicanalisi, che poi non necessariamente era freudiana, ma io che cazzo ne capivo, l'ho capito dopo. Forse usavano psicanalisi, sì, la psicoterapia no, non usavano. Fatto sta che di fatti questa roba la facevano gli psichiatri, cioè non c'erano ancora gli analisti, cioè secondo me non c'era neanche la scuola di psicanalisi, non nasceva in quegli anni. Secondo me non c'era neanche la facoltà di psicologia. No, psicologia no, ma non c'entra. Psicologia è nata dopo, guarda, è nata nel 74, credo, psicologia. No, non quindi c'era. Erano psichiatri. Cioè, quello era pacifico. Cioè, non esisteva la facoltà di psicologia, esistevano solo i psichiatri. E quella che poi divenne la facoltà di psicologia, in particolare a Padova, perché le prime due facoltà di psicologia furono a Padova e a Roma, con questa diversità, che mentre a Padova fu inserita in magistero, quindi fu una specializzazione di pedagogia quasi subito, tanto che... sì, comunque ambito umanistico. Chi aveva fatto pedagogia si poteva iscrivere all'albo dei psicologi. A Roma, non so in che università, non era nella facoltà di abbinato magistero, ma a medicina, quindi evidentemente l'approccio era diverso. Io non conosco nessuno che ha fatto psicologia a Roma, ne conosco tanti a Padova. La sorella l'ha fatta a Roma. Non so come sia. Ma sai, l'ha fatta negli anni fino agli anni 90. Sì, sarà cambiato tutto. Cioè, no, poi cioè, comunque questo venne alla facoltà. Però di psicologia. Quindi questi psichiatri facevano quello che, perché questo non avevo capito io, dei supporti, delle terapie psicologiche le facevano anche gli psichiatri, vuol dire che non usavano facevano i farmaci, ma facevano. Okay. Ma e quindi se l'hai iniziata a giugno, quando sei... No, a giugno sono andata a fare questa visita, quando poi ho iniziato ad andare a scuola, quindi nell'autunno, già dovevo andare a Valdagno per andare a scuola, mi trovarono questo tizio, che era uno anziano. E io evidentemente ero anche di buona volontà, cioè ero anche capii che obiettivamente poteva essere un modo per capire meglio me stessa, di rimermi un po' in queste difficoltà nella vita, non era essere matta, chiusa nel manicomio, ma quello di capire e di cominciare a tirare fuori le cose che non ho mai tirato fuori, tipo quelle delle biglie che me le rubavano, io non lo dicevo. Quindi io avevo capito questo, che parte del mio problema era il fatto che mi succedevano le cose che io vivevo come ingiustizie, però alla fine mi sentivo colpevole di queste ingiustizie e mi vergognavo a dire che le subivo, per cui non lo dicevo a nessuno, ero solo stramba e facevo dei gran danni alla fine. Per cui molto volontarosamente andai da questo tizio, già mi stavo un po' sul culo, era un vecchio che mi pareva anche un po' viscido. Dove era sto vecchio viscido? A Valdagno. Ah, era proprio a Valdagno. Lui era uno psichiatra, quindi andavo a casa sua, nel suo studio che aveva sotto casa sua, e cominciai ad andare. E lui mi interrogò un po', mi fece un po' parlare, io fui onesta. Cioè, tipo le dissi che a me piaceva questo insegnante, eccetera. Questo qua, che era un porco, evidentemente questa cosa lo ringalluzzì tantissimo, cominciò a mettermi le mani addosso. E io me la vedi brutta, soprattutto per un motivo, perché io non ero nessuno. E siccome avevo preso paura di aver visto il manicomio, io ho pensato, ma se io dico che succede questo, lui dirà che non è vero. E a chi crederanno? A me o a lui? E quale sarà la mia fine? Come la reggerò? Quindi io dissi, qua devo... Cioè, attuai quella cosa che dicevo prima, cioè io pensai, io non è che io ho qualcuno su cui posso contare solo su di me, pensai, io devo cercare di muovermi facendo la riduzione del danno, quindi io continuo ad andarci e mi faceva sempre più schifo, guarda, una cosa che mi è rimasta. Ma perché continuava? Sì, regolarmente, metteva le mani addosso, mi toccava, mi baciava, io la cosa... che guarda, mi ricordo con schifo, aveva sempre la mentina Saila in bocca. Schifo. E a me faceva vomito. E cioè, io credo che sia stato... Cioè, non so come ho fatto a non uscire di capo del tutto. Sono andata avanti qualche mese, dopodiché ho detto ai miei che non ci volevo più andare. Quando ho detto non ci volevo più andare, sono andati a vedere, ovviamente, lui cosa ha detto? Non si vuole curare. E io per... Io ne ho parlato con la mamma anni dopo, che ero grande, cioè tipo che avevo 40 anni. E adesso gliel'ho raccontato, e ho detto, però mamma, io, ma come mai non ce n'hai parlato? Mamma, ascolta, beh, se io me ne avessi parlato, tu avresti creduto a me e a lui. E lei mi ha detto, no, avrei creduto a lui, hai fatto bene a non dircelo. Perché, cioè, che credibilità potevo avere, costava illuminare. Cioè il mio babbo faceva fatica per avere quei soldi. Ricordo costava 40.000 lire a seduta. Cioè per uno che era un operaio, che lavorava. Cioè quindi io avevo anche questo senso di colpa in più. No, fu molto molto brutto questa esperienza. Una delle più brutte della mia vita, delle più schifose proprio. Cioè che se tanto ero lesbica o non lo fossi stata, lo sarei diventata se quello era il maschio. Cioè proprio qua lo schifo totale, aveva 60 anni, io ne avevo 14. Cioè era flaccido, grasso, brutto, bavoso, con ste sale in bocca, puzzolente. Cioè brutto brutto. E comunque me la cavai così. E me la cavai così, questo passaggio, in qualche maniera rimuovendo tutto. Perché io avevo provato anche a tirare fuori questo, io volevo capire se ero lesbica o meno, per esempio non sapevo neanche se chiamassi lesbica, ma affrontare questa cosa. Però mi resi anche conto che non avevo gli strumenti, cioè io credevo, cioè io quando ci andai, se no non l'avrei detto niente, no? Non ero mica obbligata, cioè perché volevo affrontarla onestamente, ma quando capì come buttava, ci penseremo un domani. E così feci, cioè io... Praticamente ho passato tutto il periodo delle superiori difendendomi sempre da questa cosa, quindi in qualche maniera vietandomi di sentire, eccetera, in modo da non avere innamoramenti che chissà dove mi sarebbero potuto portare. Quindi sempre tutto estremamente controllata. Ma non avevi avuto nessuna esperienza di lettura, di relazione amicale, lontana, di film, di nulla? Cioè non sapevi che esistesse no. Le donne che amano altre donne? Come le no, amano, non avevo la, idea, la, non la, c'era. Calvino non ne parlava, Cecco. Non ne parlava, non ne parlavano, quelli andavo sempre un po' in biblioteca. Cioè poi si comincia un po' a parlarne, ma erano tutti schifati, quindi dicevano, no, io perché non so quella roba lì. Ma non... La Checca vuole intervenire. No, ti volevo chiedere una cosa, Graziella. Allora, due cose. Questa cosa dello psicologo, di questo psichiatra molestatore, era il primo anno di superiori. Sì. Ma quando, diciamo, qual è stata la reazione dei tuoi... Quando tu, dopo che sei caduto, ma dopo che ti sei buttato, è successo tutto eccetera, secondo te, cioè tu come ti ricordi la reazione, come sono cambiati i tuoi genitori di fronte a quella, secondo me sono cambiati nel senso che come te li ricordi, cioè me li ricordo che hanno avuto, cioè che sono andati molto in crisi, perché la reazione era quella di dire, ma noi questa figliola non l'abbiamo mai capita. Okay. Quello a me era evidente. In qualche maniera è cambiato, non è che con questo non c'è più stata conflittualità, però ero uscita da questo essere, ora tu non c'eri oggi, ma ti dicevo in prima elementare, quando per la mia mamma io ero più grave della bambina Down, cioè ero uscita dall'essere prigioniera di questo destino da cui avevo voluto uscire, cioè che era quello dicevo prima, cioè che mi immaginavo considerata una specie di handicappata destinata comunque ad andare a fare la perpetua di qualche prete, no? Cioè, come trattavano le donne in quel contesto rurale veneto che stava finendo, ma era quello da cui provenivo, poi io non lo sapevo che stesse finendo, cioè stava finendo in quegli anni, io sto parlando del 67. Però c'era ancora stato il 68, ma era lì per esserci, quindi stava cambiando, ma che cazzo ne sapeva io che stesse cambiando? Il fatto che stava cambiando, dico ora, era leggibile anche dalla mia esistenza, non sarei esistita se non ci fosse stato un contesto che stava cambiando, ma quando tu lo vivi, è come dire, quando tu sei in mezzo al mare, non lo sai dov'è il confine del mare, quindi per te non c'è confine di quel mare. Quel mare è infinito e se tu ti sposti il mare è sempre infinito e quindi dopo magari col sapere del poi, dopo che ha scoperto l'America, dice a Tom, vedi che io in quel momento ero in un mare infinito che non sapevo dove sarebbe andato. Ora posso dire che io ero in quel mare perché stava cambiando quel mare. Quindi loro, diciamo, ti hanno in qualche modo guardato, iniziato a guardare con occhi diversi. Sì. Infatti per questo mi hanno fatto fare il classico. E loro, quando tu, in quei mesi che tu sei stata a letto, diciamo, erano, cioè, si comportavano, nel senso, ti hanno accudito? Sono stati amorevoli. Sono stati amorevoli, non ti hanno fatto domande, no. Tante? Cioè, una volta mi pesava un po' questa cosa, perché loro avevano intuito qualcosa con questo insegnante, che poraccia, se entrava proprio niente, okay. Però loro avevano molto tensione nei suoi confronti, ma secondo me... perché no, non perché pensassero chissà che, perché comunque era quella che invece di far qualcosa per bloccarmi, chiamarmi, eccetera, chiamò il preside, nessuno li chiamò e mi mandarono fuori da scuola sola. Quindi secondo me in qualche maniera loro l'avevano colpevolizzata, lei e la scuola, cioè chi in qualche maniera era intervenuta in questa vicenda, ma proprio perché è vero, cioè... Al giorno d'oggi ci sarebbe altro che un processo su una cosa del genere. Allora non era così, perché eravamo quei bambini abituati ad essere buttati in strada e giocare in strada. Cioè, io non mi sento neanche di dire no, dovevano, eccetera. Ognuno ha fatto che poteva in questa storia. Cioè, non è che tu puoi individuare un colpevole in un contesto dove sì, tutti siamo colpevoli, ma allora che era colpevole anche lo zio prete, no? Se il mio timore più grosso era di finire a fare la perpetua, cioè forse i preti due domande potevano farsela, non se la sono fatta, quindi Questo fatto è tu fino a poco tempo fa a noi tutte hai raccontato un po' solo il pezzo diciamo, cioè, come lo interpreti adesso, cioè ci hai raccontato prima un po' una storia diversa, nel senso che anche a me l'ultima volta a tutte noi, no, ci hai raccontato molto, almeno quello che ci ricordiamo, il più che una lettera in cui tu parli di tentativo di volontà di suicidio, invece a noi hai raccontato una lettera d'amore all'insegnante. Che però non ha mia testa più che reale. No, per questo ti domando, allora, al di là poi di quale sia, cioè che, però come la leggi adesso? Perché che ho una versione in un modo... È una versione che è diversa rispetto a quella che hai sempre raccontato. Che non sono più militante, Francesca. Cioè io avevo una versione che, cioè nonostante io quando sono stata segretaria nazionale dell'Arcigay, quando ho avuto visibilità, io non ho mai parlato di questa cosa, però io ho sempre avuto consapevolezza che senza questa cosa io non avrei mai fatto il tipo di militanza che ho fatto, questo è vero, era vero quando lo raccontavo ed è vero ora. Certo. Io ho dato una versione vera, ma limitata e quindi molto... schiacciata su questa cosa, ti ripeto, era molto più complessa. Poi certo, nel momento in cui io faccio la militante, mi vivo come militante, mi invento il progetto Daphne, che proprio tra l'altro andava a toccare questo, cioè io allora, se devo parlare della mia esperienza rispetto a quello che sto facendo, a quello che ho fatto, dico, io ci sono passata di lì, è vero, però ti ripeto, non basta essere lesbica a 13 anni e non sapere che cos'è il lesbismo per arrivare a questo. Ci sono state tante altre componenti, certo, sostanzialmente sociali. Cioè, per me un altro elemento che era successo quell'anno, nel 67, e che mi colpì tantissimo ed ebbe un forte impatto su di me, fu il suicidio di Tenco a Sanremo. Il suicidio di Tenco, che fu molto mitizzato, il 68 stava arrivando, e quindi il coraggio di Tenco, quindi il suicidio come atto di coraggio, ma quello sulla testolina della bambina di 12 anni, che aveva tutte queste tematiche, problematiche in mente, quello ha pesato tanto, ha pesato di più Tenco, ha pesato di più lesbismo. Non lo so, però quello che ha pesato il lesbismo ha dato una svolta alla mia vita. Certo. Tenco no, non è che sono andata a fare la cantante di Sanremo. No. Cioè, è per questo che magari se io ne ho parlato nel momento in cui stavo ancora facendo attivismo, capisco che probabilmente è per questo che io tendevo a marcare molto più questo aspetto. Mm-hmm. Che c'è. Sì, sì, sì, sì. Però se devo tirare fuori chi sono io, io non sono... solo lesbica. No, no, certo. Cioè, e soprattutto anche lo stesso essere lesbica e a un certo punto può essere arrivata a nominarlo, è perché tutto ciò è avvenuto nel 1967, quando stavo arrivando il 68, e per quanto io vivesse su quei monti e andassi nei boschi, evidentemente certe cose passano nell'aria. Quindi è per questo che è potuto succedere. Quindi se devo dare una lettura ora da una che ha 70 anni è diversa dalla lettura che magari ti ho raccontato quando ne avevo 60, è diversa. Certo. Per quel motivo qua, perché ora ho una visione secondo me più reale, come te la dico ora, non è più vera, è più complessiva. Cioè potrei anche non essere stata lesbica e magari aver vissuto un'esperienza analoga. Certo che il prodotto, cioè, poi per gestirmela non è che avrei fatto quella che faceva la Arcigay, ho fatto un'altra cosa, o magari non sarebbe stato così determinante. Per me è stato determinante scoprire poi il peso che ha avuto anche quello, notare che c'erano delle percentuali di tentati suicidi che, cioè, altissime proprio fra i gay e le lesbiche. Cioè, allora, anche se fino a quel momento, cioè, chiaramente ho molto focalizzato anche la mia esperienza su questo, perché era focalizzare la mia esperienza su quello che mi permetteva di pensare di che cosa io avrei avuto bisogno rispetto a questo e pensare a un progetto, altrimenti su cosa lo facevo? Mm-hmm. Cioè, se non partivo da me, io gli sono partita da me, quindi dalla lettura di quella cosa su questo, certo, in avrei caso. Potuto fare tante altre, cioè intendo, poi ripeto, nella vita ci sono degli snodi dove il caso conta tanto, tantissimo, certo. Che ti può mandare di qua piuttosto. Resta il dubbio su questa lettera, tu hai questo bigliettino e tu io hai scritto. Io ho scritto questo biglietto dove io la cosa che dico ora, io non avrò certo scritto che l'amavo, vattene la pesca, l'avrò magari pensato, però era una provocazione per farmi dar retta, forse nella mia intenzione iniziale. Però non era solo una provocazione, era il fatto di scriverlo a lei che era una provocazione, ma non che questo non esistesse. E difatti mi ci sono buttata, quindi, e buttarmi per me non era più una provocazione a quel punto, questo ce l'ho chiaro, non era un tentativo di attirare l'attenzione, questo ce l'ho chiaro, facevo un'altra roba, cioè sceglievo un posto più basso, trovavo le pasticche, mi tagliavo le vene, cioè sì, quante no, tra l'altro tante volte a me o anche in altre persone, anche in questa intervista che ti hanno fatto, scritto ha fatto Simona Alliva, l'hai ricollegato con una lettera di un ragazzino di tanti anni sì. dopo, e una lettera di cui io mi ricordo i primi tempi ci si conosceva, te mi hai fatto leggere, e quindi evidentemente per te è stata rilevante questa lettera, ti ci sei ritrovata? Del ragazzino? Quello che apre il libro di Paterlini. Allora, no, sono due, io non cito quello. Allora, il libro di Paterlini è una storia ed è un ragazzo che si è ammazzato perché è stato trovato nei cessi con un altro a 16 anni. La lettera pubblicata da Paterlini è quella di quello che è stato trovato con quello che si è ammazzato, che fra l'altro andava a scuola vicino alla sede dell'Arcigay e la ricevemmo noi. A Verona, perché gliela demmo noi a Paterlini quando stava, sentiva varia gente, se si conosceva qualche ragazzino da intervistare, noi avevamo questa lettera ricevuta allora, con lui che era venuto anche a cercarci a un banchino che facevamo al BB Città, che era una gara di corsa non competitiva dell'Arci, ed era tenero perché raccontava che era venuto, secondo me aveva trovato Robby, perché come lo descriveva era tipo come si poneva Roberto, che gli aveva sorriso, gli aveva dato il bicchierino di tè e lui si era tenuto da settimane e mesi il bicchierino di tè sul comodino e aveva scritto questa lettera per dire che lui era dispiaciuto, e quella è una, che è quella di Paterlini. Quell'altra invece è una storia dopo, credo che sia due o tre anni dopo, che finì sui giornali, che invece era un bambino, perché era un bambino, aveva 13 anni, della provincia di Bergamo, che anche quello lo chiamavano la checchina, eccetera, un po' come quello, la vicenda era similare a quello con i pantaloni rosa, che è successo nel Cavour a Roma in anni 2000. Ecco, inizio, e lui 2010. Cosa fece? Si lasciò morire con un biglietto che gli trovarono addosso, dove c'era scritto: spero di rinascere in un mondo più gentile. Si lasciò morire nella neve, cioè di notte uscì, andò sui monti e si lasciò morire nella neve. Ovviamente quello era vicino a me anche in senso geofisico, no? Quando, certo. Per cui mi colpì, mi ci ritrovai. Quella mi sa che è quella che cito io, Simone Alvino, non è quella di sì, hai ragione. E certo che capito, perché anche lì, anche per me, io non avrei detto spero di rinascere in un mondo più gentile, perché io intanto non ero un maschio e quindi al maschio la gentilezza è negata, e quindi probabilmente era anche questo desiderio. No, io avrei potuto dire e scrivere e sottoscrivere spero di nascere in un mondo dove c'è posto per me. Né più gentile né più scortese, ma dove c'è posto per me, in un mondo neanche più giusto. E difatti, perché poi è vero, all'inizio, specie mia mamma, dopo lasciò lì, voleva capire perché, Cioè, e io ero in difficoltà a spiegare perché, perché non ci riuscivo. È una cosa che difatti lei forse capì e cercava anche di distogliermi da questa idea. E io me la sento ancora, perché poi nella vita ogni tanto mi è capitata ancora, mi sentivo addosso tutto il brutto del mondo. Cioè, non so se tutta la sofferenza del mondo, sentirsi carichi della sofferenza degli altri, cioè essere in qualche maniera in una situazione di sofferenza, e non solo c'è la tua sofferenza, ma anche sentire che gli altri soffrono, ed entrare in un loop dove senti la tua e quella di tutti quelli che ti sta intorno, e aumenta, diventa una cosa, e sono dei loop terribili questi. E in quel periodo, secondo me, anche la spinta alla giustizia, eccetera, a me che ero molto piccola, giovane, però cominciavo a non essere più bambina, ma a voler capire il mondo, cioè io mi sentivo questa sofferenza del mondo addosso, ed era brutto, ed era quindi, cioè non ero solo io, era il mondo che era così, cioè non era il mio mondo questo. E ci sono tante analogie, secondo me sono le analogie che forse poi ognuno dentro di sé trova, no? Cioè tutti noi abbiamo dei momenti così. Un conto è soffrire per una cosa ben determinata, ti muore una persona cara, ti fai male, cioè un altro conto è non sapere perché soffri, e però anche saperlo, e capire che non ci puoi fare niente, e capire che è insito. E però per diventare adulti, per vivere compiutamente, bisogna assumersi questa cosa. Cioè non è che io ora che ho 70 anni penso la morte non mi fa paura, eccetera, la sofferenza, ma però anche, capito, a volte ci penso, cioè guarda, cioè io morirò prima della Titti, cosa le lascio? Tutti i libri da dover buttare via, che peso le lascio? Cioè me li faccio queste cose, e però ho poi imparato a rimuovere. Cioè, questo anche grazie poi a successive psicoterapie che ho fatto. Cioè, beh, io lo dico sempre, una cosa che per me è stata illuminante, molti anni dopo, quando andavo dalla psicoterapeuta, quella che andavo quando ho conosciuto te, poi ho smesso quando poi sono venuta a Firenze, per me è stato illuminante quando lei mi ha detto, cioè io avevo problemi con la rimozione, che ritenevo che la rimozione fosse un mio problema, che la rimozione fosse brutta, e che siccome io rimuovevo era una cosa brutta che io rimuovessi, perché non affrontavo la realtà. E mi ricordo che lei mi tranquillizzò dicendo, guardi, la rimozione è sana, va solo gestita. Sa cos'è la rimozione più grossa, però anche più utile e necessaria alla vita umana? La rimozione della morte. Perché se noi avessimo sempre presente la morte, non vivremo più, perché saremo in balia della paura della morte. Meno male che la sappiamo rimuovere. In questo caso la rimozione è un dato sano. E in tutte le vicende poi c'è sempre questo doppia cosa che un po' devi tirare fuori, un po' devi rimuovere. Cioè la sofferenza la devi rimuovere, devi imparare a rimuoverla. Poi certo che nel corso della mia vita, non so, mi sono convinta ora, se devo rivedere i periodi in cui sono stata male, eccetera, quando abusavo troppo di me, cioè mi stancavo troppo sostanzialmente, perdevo la capacità di rimuovere, e mi crollava tutto addosso, e impazzivo, cioè non riuscivo più, cioè mi sentivo tutta la sofferenza del mondo addosso, tutta la mia sofferenza, l'incapacità, era tutta colpa mia, tutto un grande ingarbuglio, probabilmente solo perché ero troppo stanca e quindi incapace di gestire. Perché la psiche umana, quello prima ti dicevo, sì, cioè c'è rispetto a quello molto il fatto del lesbismo e così via, però ora negli anni ho imparato ora, se mi si chiede, non è che sto a pensarci più di tanto, però a focalizzare molto anche sul concetto di salute mentale, che non è una cosa così, nel mio caso, l'assenza di salute mentale molto spesso mi è derivata dalla mia incapacità di gestire le mie forze e dal non aver trovato, quando era il tempo, qualcuno in grado di aiutarmi a fare questo. Perché è lo stesso problema che io, per esempio, ho avuto sempre con gli studi. Cioè io avevo bisogno sempre del tutor, probabilmente, non ho mai imparato ad essere autonoma, a gestirmi i tempi. Cioè magari io ero sempre brava all'inizio, poi mi perdevo per strada. È uguale anche questo, cioè nel fare le cose io non sono mai stata tanto equilibrata. Cioè o tutto o niente. Cioè, e questa è stata una mia incapacità che ora vedo e che quando c'ero dentro appieno non solo non vedevo, ma che spesso mi portava a degli eccessi per cui sconfinavo nella malattia mentale. Che poi è quello, non è una roba di cui aver così paura, se capiamo che cos'è. Ora, io lo posso vedere, io sono sempre stata sul crinale, che vedevo di qua e di là, che vedevo le matte giù di sotto, che potevo caderci anch'io, e dall'altra parte vedevo chi invece era oltre questo, no? Che in qualche maniera aveva più strumenti, perché in fin di conti poi gli strumenti ne ho avuti a cavarmi in tante situazioni, non ultima quella di questo psichiatra molestatore, quando avevo 14 anni, in una situazione di estrema fragilità fisica, psicologica, venivo da quell'esperienza, ma non mi ha affossato del tutto, quindi vuol dire che io già allora mi ero creato una serie di strumenti, cioè, molto forti, molto potenti nella mia fragilità. Per cui, ecco, poi tutta la mia vita è stata un po' un guazzabuglio così. Certo, è stata sia da un punto di vista relazionale che da un punto di vista di relazioni pubbliche, di identità e così, molto anche formata sulla mia attività di militante lesbica. Ma questo era quello che mi toccava fare nel tempo in cui io ho vissuto. Io quello dovevo fare, non è che dovevo fare, non ero nera, non potevo fare la nera che andava negli Stati Uniti a farla nera. Cioè, non ero un'operaia, anche se ho provato a fare anche l'operaia, perché volevo vedere la classe operaia, poi ho pensato che non ero neanche quella. Ero una lesbica, in fin dei conti. E come tale ho valorizzato, ho letto una serie di esperienze dandogli quel taglio in specifico per poter fare delle cose su questo. E questo mi ha dato anche un equilibrio alla fine, eh? Cioè, alla fine in tutti i miei deliri, in tutte le mie cadute e rinascite, eccetera, però ho sempre avuto una costanza di alcune cose e qualcosa devi avere. Una quella e l'altra la caparbietà di non perdere il lavoro, perché per come sono io sono stata caparbia a non perderlo, non so come ho fatto a non perderlo mai, perché sono riuscita a far tutto quello che volevo nonostante il lavoro, però non mi sono fatta convincere neanche da Berlini a licenziarmi, neanche quel promesso di Mario Monti, perché in qualche maniera capivo che quello mi avrebbe permesso alla fine di decidere io, e quello me l'ho sostenuto. E anche quello è stato un punto fermo, quindi di fatto sono stati quei due i miei punti fermi. Uno, un punto fermo di garantirmi, a costo di pagare anche un prezzo pesante talvolta, la possibilità di essere io a decidere, la possibilità che nessun altro avrebbe potuto salvarmi se non mi salvavo io, ma dovevo mantenermi quella indipendenza di pensiero, quella libertà di pensiero, anche se non libertà fisica talvolta, ma di pensiero. E quello lo potevo fare solo se non ero ricattabile. Però la stessa ricattabilità, per esempio, l'avrei avuta anche se io mi fossi nascosta come lesbica. E quindi anche quello per me a un certo punto divenne un'esigenza. Cioè, la ricattabilità. E quindi su quello poi ho fondato l'altro pezzo della mia identità. L'altro pezzo, nel senso, non è che l'identità è fatta a pezzi, però di fatto una che lavora, che si mantiene col proprio lavoro e che fa una scelta affettiva per come le pare meglio per sé, per come le piace. Che non si è spostata, però io la farei una pausa tematica. Pausa tematica, ma io gli voglio chiedere una cosa su questo passaggio sempre. No, forse è stata una fortuna il fatto che tutti butti dal ponte, ti tengono praticamente un anno scolastico in ospedale, cioè poco meno, poi fa l'esame di terza media, ricomincia ad andare a scuola in un'altra scuola, in un altro paese, in un altro mondo, e al classico, eccetera, e Quindi, come dire, non eri per nessuno quella che si è buttata dal ponte, o sì? No, forse sì. Io credo sia stata una rimozione collettiva. Ora, a Valdagno no, ma io frequentavo Comunque la... tu non hai sentito di essere per gli altri quello. Anche perché forse ero quella per gli adulti. Per gli adulti sicuramente, ma tanto in quell'epoca i giovani erano contro gli adulti. E quindi, perché io poi non è che ho fatto la scelta di frequentare la gente di Valdagno che non sapeva di me, frequentavo solo gente di Arequaro e avevo un Anche po'. quando hai fatto il classico? Sì. Cioè, questi che incontravi sulla Erano loro i miei corriera, che amici. erano liceali del classico, ma che Sì, che poi stavano sono a Arequaro. diventati anche quelli di ragioneria, quindi il mio gruppo di amici era di Arequaro, anche perché finché non abbiamo avuto la macchina, che poi io non ho avuto mai, non è che tu la sera potessi andare a Valdagno, non c'erano neanche più le corriere. Quindi si usciva, tanto a Arequaro c'erano 120 bar, quindi si aveva da fare il giro di bar lo stesso. Quindi i miei amici erano questi, però in un momento storico particolare, per cui non ho mai sentito, forse non ho neanche mai sentito bisogno di parlarne, o magari con qualcuno avrò anche parlato, ora non me ne ricordo, ma sicuramente. Però non... Era come... è diventato subito passato per me. Cioè, la vita mi aspettava, cioè, non... e ti dirò che poi l'ho ritirata fuori un po', rivolendola un po' riguardare, eccetera, un po' quando stavo periodicamente male, che poi ogni tanto mi succedeva, quindi faceva parte del mio percorso di malattia questa, no? E quindi in qualche modo veniva fuori, ma quella era un'altra cosa. Ma rispetto alla mia vita, mi è poi venuta fuori quando ho cominciato a fare attivismo. E in particolare me la sono proprio rivissuta rispetto a Daphne, perché Daphne a me è venuta in mente a partire da lì, per caso, Te non è non ci che... ripensavi più negli anni tra Cioè non è una quell'evento cosa... e Daphne, non era un... Non l'ho neanche tanto messo in relazione poi il mio attivismo, cioè era un pezzo di quel percorso, cioè magari ne parlavo, ma... Cioè, però di dare significato politico completo, quindi anche di decidere di dare questa lettura in maniera preferenziale, è stato con Daphne. Cioè, non so, ora Anche perché voi non so c'è... se tu hai sempre questa lettura, ma a me mi hai detto Prima di Daphne? molto prima di Daphne, che tu non ne avevi mai voluto parlare pubblicamente, perché poi ne parleremo, hai svolto un ruolo Sì, quello pubblico sì, quello dico della sempre. lesbica, l'unica lesbica Ci visibile, mancava fosse quella che e sarebbe non t'andava e potuto. non pensavi che Quello sì. fosse utile che l'unica lesbica visibile avesse una storia di tentato suicida alle spalle. Quello sì, quello lo dico anche ora. E quello non l'ho detto neanche con Daphne. Cioè, io non è che ho fatto Daphne dicendo perché ho avuto questa storia. Cioè, lo sapevo io, lo potevi sapere te, lo sapevo. Cioè, ma neanche il circolo. No, Cioè, neanche nell'ideazione di Daphne non ho mai parlato, lo sapevano i miei amici. Cioè, quindi non lo nascondevo agli amici, ma non l'ho mai usato come strumento di politica, l'ho usato come strumento di ideazione, che è un'altra roba. Cioè, io difatti, è vero, nell'intervista di Simone Oliva, è la prima volta in cui l'ho detto pubblicamente, perché a quel punto non sono più una militante lesbica. Non sono più, ma a parte questo, potrei anche esserlo, ma soprattutto da tantissimi anni non sono più la lesbica visibile che può rappresentare qualcosa per qualcuno, rappresento niente, cioè intendo i giovani per cui, le giovani per cui io potevo rappresentare comunque un modello, oramai c'è 60 anni, cioè intendo, Se posso anche anche conoscono la esimermi sua dalla storia. responsabilità di se si vogliono suicidare, cioè sono i cazzi loro. Però quando io di anni ne avevo 35, cioè mi riferivo a quelli di 20 anni che mi potevano vedere. Ed è questo sia il motivo per cui non ne parlavo pubblicamente. Però anche individualmente, poi, cioè, non è che ne facevo parte della mia identità, cioè te l'avrò parlato Come di altre cose. sì, come di altre cose, perché faceva parte della mia vita, non l'ho mai negato, non l'ho. Neanche mai, cioè non è nasconderlo, è semplicemente non usarlo pubblicamente. Se uno mi avesse chiesto, io avrei cambiato discorso molto banalmente. E dello psichiatra molestatore quando l'hai raccontato la prima volta? Non lo so, anni dopo, sicuramente tanti anni dopo. Per cui anche questo, per esempio, secondo me lo posso averlo raccontato forse la prima volta Ornella, forse, sai, la cosa più, cioè non me ne ricordo, quindi è una supposizione, no? Cioè, perché a chi lo racconti una roba così? Cioè, anche perché, tanto potevo fare niente, no? Cioè, aveva senso raccontarlo, se raccontarlo fosse stato cioè trovare qualcuno che mi aiutasse. Ma ho dovuto farlo da me, quindi, cioè, e quindi poi l'ho raccontato sicuramente dopo che in qualche maniera ne ero uscita a una persona che magari mi fidavo, come racconti tante altre cose. Questo indipendentemente da quanto possa aver sofferto meno questo. Cioè, però non l'ho raccontato come una necessità. Ed è quello per cui, per esempio, a me anche su questo mi era chiaro, tipo io infatti vedo che in Daphne c'era tutta io, cioè si vede che me l'ero pensata a partire da me, perché anche è vero che dopo, se tu vai a leggere, è quello esattamente che dicono quelle che si occupano di violenza, ma io c'ero arrivata da me, cioè nessuno, cioè è rarissimo che la violenza venga denunciata subito, non viene quasi mai denunciata. E quando viene denunciata e detta, spesso anni dopo, e difatti nelle domande che avevamo fatto per il questionario c'era questa domanda, e sono state tutte conferme, cioè di come in realtà la mia storia era la storia di chiunque avesse subito, forse un po' di tutti, no? Non era una storia poi così particolare, così, è che io l'avevo resa, cioè forse mi si sono sovrapposte tante cose, perché c'è stato da un lato questa cosa del suicidio che però poi è stato amplificato e non dico determinato, ma sicuramente circondato da un contesto socioculturale, storico molto particolare, un attimo prima dell'inizio del 68, che il 68 poi alla mia generazione ha aperto una finestra sul mondo, sono sparite le perpetue, non per me, per tutti, cioè per tutti, per la gente della mia generazione, della mia classe sociale, col 68 sono sparite le perpetue, ma nel 67 non erano ancora sparite, quindi tutta la mia storia va messa in quel... è un anno molto molto particolare il 67, secondo me, non è un caso che sia coinciso, e quindi... Sì, ci sono tutta una serie di circostanze che forse a me mi hanno permesso, mi hanno favorito nel mettere insieme tante cose, magari uno ne vive una di queste cose, poi tante altre che io non ho vissuto, ma di queste cose normalmente magari una persona vive una cosa, io ne ho vissute tante, c'è la violenza di questo, cioè tanti tipi di anche di sopraffazione, la violenza comunque la violenza, poi è sempre difficile anche usare i termini corretti, ma comunque il crescere in un paese dimenticato da Dio lassù, cioè che tuttora è così. Ma io ho dovuto venire via, certo perché ero lesbica, ma comunque dovevo venire via, un po' con aspetti che possono assomigliare a chi viene via dal sud, possono assomigliare, molto peggio al sud, non è che voglio... Però l'isolamento, sostanzialmente l'isolamento socioculturale, io sono cresciuta in una situazione di isolamento, tante cose. E certo che se dopo io nella mia vita ho dato la predominanza alla mia figura pubblica come lesbica, molti dei miei avvenimenti, degli eventi della mia vita, dove il lesbismo, pur non essendo l'unica causa, eccetera, c'era, probabilmente io sono sempre stata portata a far emergere quell'aspetto, perché mi era anche utile a dare un senso complessivo alla mia storia, perché poi a me questa mancanza di continuità ce l'ho tuttora, è irrisolta per me, resterà irrisolta. Io purtroppo ancora adesso a volte percepisco la mia vita non come un tutt'uno, come tanti blocchi, infatti vedi che, cioè, mi fai parlare dell'infanzia, sono una persona, poi divento un'altra, poi... faccio fatica a riconoscermi che sono la stessa persona, Perché ci sono state tante fratture, tanti momenti di passaggio. Sì, e ogni volta si forma come un'identità diversa. No? Quali sono stati gli altri? Quelli fondamentali. Faccio fatica anche a capirlo, perché allora, vabbè, ora ho seguito una temporizzazione che mi avete dato voi. Sì, no, poi ci si ritorna, però per capire, visto cioè, per me poi una svolta è stata Padova, sicuramente, cioè prima di andare a Padova, poi venire via da Padova, con un intermezzo. Un'altra svolta molto importante è stata anche quando io ho deciso di lasciare il liceo, di andare in fabbrica a lavorare, perché la classe operaia doveva andare in fabbrica, quindi cioè devo andarci in fabbrica, io altro che andare a scuola, quindi improvvisamente tutto questo, l'ho fatto e sono andata in fabbrica, sono partita la mattina stessa, ho pensato che ora trovo una fabbrica che mi assume, l'ho trovata. Quindi sei la fabbrica a Padova e poi? Cioè prima la fabbrica, poi vabbè gli ho cambiato idea eccetera, poi più che essere andata a Padova, forse quando sono venuta via da Padova, che poi in realtà è stato anche contemporaneamente quando ho dichiarato finita una stagione, che per me è finita con la stagione di Bologna del 77, che ho la distanza di 10 anni, però dal 67 al 77, ma questi cicli decennali ci sono. E ho aperto una nuova stagione a Verona, dove la cosa fondamentale per me era ora devo affrontare il fatto se sono o meno lesbica. Era venuto il momento, secondo me era venuto il momento, e l'ho fatto. E lì è stata una grossa cesura che ha coinciso casualmente di lì a pochi mesi anche con la morte di mio padre. E quindi a quel punto non ero più figlia di famiglia, neanche di famiglia povera, non ero più figlia di famiglia. Con una grossa difficoltà anche relazionale, perché immediatamente in maniera generosa ho lasciato Verona per andare ad aiutare mia mamma, che lei non aveva mai lavorato in fabbrica, ci sono andata io un'altra volta a ricordo in fabbrica, ho retto un mese e poi sono scoppiata. Quindi anche lì è stata un'altra grossa cesura, sono tornata a Verona, sono andata ai volantini, a quel punto ho deciso che mi rassegnavo, andavo a lavorare. Mi sono mantenuta per 2 anni andando ai volantini, 8.000 lire al giorno. Poi c'ho avuto, vabbè, la fase di Radio Popolare, nel frattempo mi ero messa con una. E poi, dopo la fase di Radio Popolare, dove ho litigato, che cioè, per me Radio Popolare era anche un'opportunità lavorativa a un certo punto, e però di fronte al compromesso non l'ho accettato, ho detto cazzo, si terranno i giornalisti che si meritano, e così ho abbandonato. Quello mi ero pure iscritta a giornalismo urbino. Ma la cosa, tutte queste cose te le richiediamo, Graziella, nei dettagli. Poi sei entrata nell'Arcigay, quella sarà stata un'altra fase. Sì. Quindi, sì. No, vabbè, quindi sono tantissime queste cose. Lì poi ho cominciato a lavorare, perché è stato solo dopo che ho lavorato e ho visto l'ipotesi di avere un lavoro fisso, cioè che tanto avevo le supplenze annuali ormai stabili, a quel punto sono entrata nell'Arcigay. Sì, no, ma sono tante queste cesure. Sì. Poi sono uscita dall'Arcigay. Sono... Poi, cioè, sì, sono tante cesure. E non solo cesure magari su quella cosa, normalmente quando io ho una cesura coinvolge e stravolge tutta la mia vita. Cambio città, cambio fidanzata, poi non mi vogliono mai, poi, cioè cambio tutto. Sei sposata, poi, appunto, da anni, ti ragionavamo con la Titti, no, ragionavamo con la Titti non tanto tempo fa, di come io, quindi conti, sembra che io ogni tanto faccio delle cose, io non mi sono mai inventata niente, trovo delle fidanzate che hanno una cosa che le interessa, allora io gli vado dietro, poi loro si stufano e io vado avanti, allora il Ciccio voleva andare a Radio Popolare, allora anch'io, subito non mi interessava. Poi Ciccio faceva la sua trasmissioncina, poi lei non gliene pregava niente, io invece alla fine sono diventata che ero di Radio Popolare. Di fatto ci lavoravo per fare... Poi venuta via da Radio Popolare, Ciccio gli è venuto in mente che aveva aperto la Cigna a Verona, bisogna andare a vedere. Io non volevo, mi vergognavo. Alla fine tanto ha fatto, tanto ha detto che mi ha convinta, sono arrivata alla Cigna, poi lei dopo un po' si è stufata e io ci sono rimasta. Sì, ma talmente tanto che quell'incipit casuale del Ciccio ce lo possiamo anche dimenticare. Vabbè, però fatto sta che se non c'era quello non ci sarei arrivata mai. Poi è arrivata la Biagini, io mi ero ritirata, però poi è successo per uno nel 95, insomma la vedevo un po', diceva no ma non puoi non far niente, dai devi muoverti, allora io ho detto sì va bene andiamo. Capito, questo fatto del tuo ritiro, poi ci arriveremo, te lo vivi, allora sei stata tipo 6 mesi senza fare politica. Va bene, ma dopo è successa questa cosa, quindi non... Poi, no, vabbè, basta, non andrà troppo avanti, sennò si perde il filo. Ora la Titti le è venuta in mente gli abiti usati, lei dopo 2 mesi era stufa, io sono qua con la casa piena di vestiti. Perché ancora non ci ha fatto vedere il trappa di vestiti. Perché volevi aprire che è il momento tematico? No, era per mettermi tanto una pausa e ripartire. Facciamo una pausa, da mezzanotte un quarto, diamoci un tempo di stasera. Cioè era per non... Dici te quanto, intanto io qui stacco, poi posso riattaccarne un po'. No, perché